Per la nostra meditazione di questa sera, io ho scelto un brano del Vangelo di San Luca che è abbastanza conosciuto da chi legge il Vangelo e che è al capitolo 5, l'inizio, la prima pesca miracolosa di cui parla il Vangelo e che è un episodio che ci aiuta a conoscere, a fare la conoscenza con l'Apostolo Pietro. Se uno legge il Vangelo di San Luca dall'inizio, trova all'inizio i Vangeli dell'infanzia, poi quando comincia la vita pubblica del Signore c'è il battesimo di Gesù, poi il suo ritorno a Nazaret, e poi Gesù va a Cafarna, e lì c'è un primo accenno a San Pietro, perché si parla che Gesù è entrato nella casa di Simone, dopo aver parlato alla sinagoga, e c'è l'episodio della guarigione della suocera di Simone. Quindi il Vangelo di Luca, voi pensate che se conoscessimo solo questo Vangelo, abbiamo cominciato a leggerlo, abbiamo visto la narrazione dell'infanzia, l'annunciazione dell'angelo a Maria e poi insomma a Betlemme, la nascita di Gesù, Gesù perduto e ritrovato nel Tempio, insomma tanti episodi che noi conosciamo dell'infanzia di Gesù dal Vangelo di San Luca. Poi l'inizio della vita pubblica e a un certo punto compare questo Simone a Cafarnao. Poi noi da altri dati del Vangelo ci immaginiamo che Gesù proprio abiti nella sua casa e nella sua casa incontri la gente, parli con la gente, no? Però abbiamo solo questo accenno di questa casa di Simone dove Gesù conosce la suocera che era in preda a una grande febbre, dice San Luca che secondo la tradizione è un medico, perché si vede che mette in evidenza aspetti insomma, della salute. E lo pregarono per lei, si chinò su di lei, comandò la febbre e la febbre la lasciò e subito si alzò in piedi e li serviva. Questo episodio lo raccontano anche San Marco e San Matteo. E San Marco dice che Gesù la prese per mano, che è un gesto che a Gesù piace molto, molto fare e con il quale spesso guarisce le persone, no? Le prende per mano, anche gli ridà la vita, no? a quella dodicenne che era la figlia di Gairo che era morta, la prende per mano e gli dice: fanciulla, alzati, oppure insomma in altri episodi del Vangelo si vede Gesù che con la sua mano guarisce. Per cui noi, se noi conoscessimo solo il Vangelo di San Luca, sappiamo di questo Simone e poi a un certo punto avviene questo episodio, sempre a Cafarnao, davanti al lago di Genesaret, e San Luca lo introduce così: mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava le folle dalla barca. Allora noi, per imparare ad utilizzare il Vangelo per la nostra preghiera personale, perché noi quello che vorremmo fare è, attraverso una scena del Vangelo, cercare di immaginarcela e di entrare un po' dentro questa scena, per essere protagonisti di questo episodio, come contemporanei di quell'episodio. Il Vangelo, avendo come protagonista Gesù che è risorto e vivo ed è Dio incarnato, ci dà questa possibilità. Anche con altri testi noi possiamo immaginarci di essere presenti quando leggiamo un racconto, però con il Vangelo questo essere presenti diventa più autentico, più vero, perché veramente queste parole sono parole di Dio scritte per noi per farci partecipare degli episodi di cui sono stati protagonisti i primi, gli apostoli, i discepoli, le persone che Gesù conosceva con la sua umanità visibile, con il suo corpo, i suoi occhi, la sua voce, la sua presenza. Anche noi possiamo avere questa esperienza attraverso la fede, attraverso la lettura della Sacra Scrittura e la meditazione che ci fa entrare dentro a questo episodio. Allora, nel leggere il Vangelo noi dobbiamo scoprire, possiamo scoprire che il Vangelo è essenziale, no? È stringato, è molto breve. Pensate, in queste parole e tra queste righe del Vangelo noi possiamo, volendo, intravedere un piccolo problema, perché Simone conosce Gesù, lo conosce già, poi dagli altri Vangeli sappiamo che anche gli altri suoi compagni di pesca, soci nella ditta di pesca, no? Suo fratello Andrea, poi Giovanni e Giacomo e magari Zebedeo che era il loro padre, e stanno insieme, abitano da quelle parti, lavorano insieme, ma hanno già conosciuto Gesù. E noi sappiamo dalla pagina precedente che Gesù è stato a casa sua e gli ha guarito la suocera che poi ha cominciato a servirli, quindi hanno pranzato insieme, hanno cenato insieme, probabilmente abitano insieme. E a me risulta un po' singolare, ma poi mi faccio un'idea, di scoprire che Gesù sta parlando e loro sono lì da parte che non si preoccupano di quello che Gesù sta facendo, non si preoccupano di quello che Gesù sta dicendo. Andando avanti nella lettura del Vangelo capiamo di cosa si stanno preoccupando. Hanno lavorato tutta la notte, hanno cercato di pescare, i pescatori vanno di notte, le poche esperienze che possiamo avere anche noi. E al mare vediamo queste barche che di notte prendono il largo per pescare, però sono tornati senza aver preso nulla, lo sappiamo dal racconto che prosegue, e allora forse sono stanchi, sono un po' sfiduciati e si mettono lì a rammendare le reti, non hanno molto interesse per quello che Gesù sta dicendo. Provate a pensare adesso, vista questa scena, provate a pensare a ciascuno di voi, io penso a me. Non è vero che ci succede la stessa cosa a volte? Cioè a volte un problema della nostra vita, che può essere per esempio un problema di lavoro, del nostro studio, del nostro lavoro, o un problema di relazione con gli altri, o comunque un problema che ci occupa e che magari ci stanca, ci fa soffrire, ci porta, senza magari che noi lo vogliamo esplicitamente, a disinteressarci di quello che il Signore vorrebbe dirci, a trascurare la preghiera. Può succedere così, può succedere anche il contrario. Noi leggendo il Vangelo vorremmo proporci di fare esattamente il contrario. Quando una notte di pesca mi è andata male, io e vedo che c'è Gesù sulla riva, corro per non perdermi neanche una parola di quella che dici tu, Signore, che perché dalle parole che dici io posso cogliere qualcosa che mi aiuta nel mio problema, che mi dà un significato a quel lavoro andato male. E allora che cosa fa Gesù? Questo è interessante anche mettere la nostra attenzione proprio sul protagonista più importante di questa scena, che è Gesù. Gesù non rimprovera Pietro, come Pietro, sei lì che vieni qua ad ascoltare quello che ho da dirti, no, non gli dice così. Invece, però senz'altro, che cosa fa? Lo guarda, vide due barche accostate alla fonda, i pescatori scesi che lavano le reti. Gesù li guarda. Noi possiamo pensare, parlando con Gesù, che siamo sempre sotto il suo sguardo, guardati da lui, guardati con interesse, con affetto e fra l'altro con conoscenza anche previa della nostra situazione. Quando noi cerchiamo di arrivare alla preghiera, come anche in questo momento, e guardiamo Gesù presente nell'Eucaristia, che dal tabernacolo ascolta la nostra preghiera, noi dobbiamo pensare: tu Gesù sai già tutto quello che c'è nel mio cuore, sai già tutto quello che mi è successo. Però a me fa bene dirtelo, raccontartelo, perché tu mi possa dare la tua luce, la tua parola che mi illumina. Però sono sicuro che tu mi guardi. C'è un famoso salmo, che è il Salmo 139, che dice: Signore, tu mi scruti e mi conosci, sai quando mi seguo e quando mi alzo. Ti sono note tutte le mie vie. Cioè tu mi conosci davvero, sai tutto quello che mi succede. Questo è una verità della nostra fede, che il Signore davvero ci conosce e conosce ogni battito del nostro cuore, no? E questo ci permette di vedere la sua provvidenza nelle cose che ci accadono. Dobbiamo fidarci della sua provvidenza. Se tu permetti che alcune cose accadano in un certo modo, vuol dire che mi vuoi indicare qualcosa, vuol dire che tu, che sai meglio di me e che cosa conviene, magari hai permesso anche che accadesse una certa vicenda per me umanamente negativa, ma per far venire fuori un bene più grande. E quindi Gesù non li rimprovera, li chiama a sé, anzi gli chiede un aiuto, e gli dice: mi presti una barca, puoi venire un po' vicino con la tua barca, Simone, che non vedi che la folla mi sta buttando in mare, poi io non riesco a parlare loro perché sono tutti schiacciati su di me, eh? La folla faceva ressa per ascoltare la parola di Dio. Mi dai la tua barca? Così io salgo su, infatti lui sale, si siede sulla barca e insegna alle folle. Il gesto di sedersi di Gesù è un gesto molto importante, perché ha un significato importante che Gesù è il maestro, e forse può significare anche, sembra che anche di più, che lui è Dio, che è diventato uomo e che ci insegna. Io penso che anche possiamo trarre altre riflessioni da questi primi versetti. Per esempio, la folla fa ressa per ascoltare la parola di Dio, cioè la folla ha desiderio di verità, ha desiderio di amore, ha desiderio di salvezza, ha desiderio di Dio. E questo noi possiamo pensare che in fondo è sempre così, anche se nelle varie vicende della storia, può sembrare che siano più lontani, può sembrare che siano più disinteressati. Noi, per esempio, in questi ultimi anni, stiamo vedendo, ma succedeva già prima, che è un crescente interesse per il Papa, no? La gente va. Anche con Benedetto XVI c'erano già le folle nella piazza, forse proprio grazie a quell'episodio, a tutto il pontificato di Giovanni Paolo II, e poi quando lui morì le folle si riversarono ad andarlo a salutare, milioni di persone da tutto il mondo, e subito dopo la gente continuò ad andare a Roma per pregare sulla sua tomba e per ascoltare il Papa. E adesso succede ancora di più, quando si vede la folla che all'Angelus della Domenica ascolta pochi minuti di Papa Francesco, che prende un punto del Vangelo e lo spiega, e noi possiamo avere un'idea di quello che succedeva con Gesù. Fra l'altro la folla lì era di meno, probabilmente perché erano meno gli abitanti di Cafarnaum, non so, però era meno popolata la terra, diciamo di quello. i viaggi non erano così facili come adesso, si può, diciamo, andare a Roma da tutte le parti del mondo con una certa facilità, però abbiamo un'idea della folla che ha voglia di ascoltare la parola di Dio. Questo accadeva quasi sempre, no? Anche quando il Papa viaggia, accade quasi sempre. Noi ci siamo abituati ormai a vedere i milioni di persone addirittura, no? A Rio de Janeiro, prima, insomma, a Colonia e nelle Filippine, insomma. Quando il Papa viaggia, in qualche modo la gente percepisce che c'è una presenza di Cristo speciale in lui e allora corre ad ascoltarlo. E noi approfittiamo di questa meditazione pensando al Papa che è lì a Roma con il Sinodo dei Vescovi e preghiamo per le sue intenzioni e preghiamo lo Spirito Santo per la loro assemblea, il loro pregare e ragionare insieme per il bene della famiglia, no? E delle famiglie, cioè per tutto quello che poi devono dire. Alla Chiesa e al mondo. Però noi ci incoraggiamo sapendo che la folla ha voglia di Dio, per cui se la folla ha voglia di Dio è perché la folla è fatta di singole persone, quindi la singola persona nel fondo del suo cuore ha desiderio di amore di Dio, della verità, della sua parola che salva, che sana, che guarisce, che perdona. E quindi in qualche misura, se noi ne abbiamo un po', no? Di parola di Dio, abbiamo un po' della fede cristiana, allora noi la possiamo passare, la possiamo offrire, la possiamo suggerire senza paura, senza paura. E Gesù riesce a parlare alla folla dalla barca di Pietro. Allora lì, forse con un passaggio un po' articolato, voi potete pensare, la barca di Pietro è il luogo del suo lavoro, lo strumento del suo lavoro. Se ciascuno di noi pensa al suo lavoro quotidiano, che per Pietro è la pesca, per ciascuno di voi sono altre cose, dobbiamo pensare, quella è la barca nella quale Gesù sulla quale Gesù vuole salire. E a partire dal nostro ambiente di lavoro, dalla nostra vita quotidiana, vuole parlare alle persone che stanno insieme con noi e che collaborano con noi e con cui facciamo conoscenza. Come vorrà parlare il Signore attraverso la barca del nostro lavoro, no? Il luogo del nostro lavoro? Attraverso il nostro esempio, cioè il fatto che noi ci lavoriamo, ci impegniamo, cerchiamo di lavorare bene, siamo attenti alle persone e viviamo le basilari virtù umane, prima ancora che cristiane, la laboriosità, l'onestà, la chiarezza, la verità, la rettitudine. E poi anche le persone si possono accorgere del fatto che noi viviamo il nostro lavoro anche con le virtù soprannaturali del cristiano, che sono la fede, la speranza e la carità. Poi a partire da quello magari saranno loro stessi a chiederci: tu, ecco, che hai gli stessi miei problemi, le stesse cose, sei una persona normale, io lo vedo che anche tu ti stanchi, anche tu, ci sono giorni felici e giorni negativi, no? Quando arrivi al mattino al lavoro si vede, no? E ci sono cose che ti piacciono di più, altre cose che ti piacciono di meno, però comunque vedo un impegno e vedo una serenità di fondo, da dove ti viene? E allora noi potremmo dire, se lo facciamo, guarda, io all'inizio della giornata offro il mio lavoro a Dio e gli chiedo aiuto per viverlo insieme con lui e lo porto nella messa, e insomma, gli sveliamo un panorama che magari non è intuibile, un panorama di vita cristiana che può interessare molto a loro. Ci sono persone che In questo modo hanno scoperto che la vita cristiana può interessare il loro lavoro. Magari avevano un'idea della vita cristiana che era in contrasto con il loro lavoro. Io devo lavorare tanto, devo guadagnare per sostenere la mia famiglia, poi sono appassionato di questo lavoro che mi chiede tanto impegno e quindi non riesco a interessarmi delle cose di Dio, della Chiesa, e della vita cristiana. Invece noi gli possiamo far scoprire che queste cose sono unite, no? C'è una famosa omelia di San José María che si intitola Amare il mondo appassionatamente, che pronunciò parecchi anni fa nel campus dell'Università di Navarra, fece una messa all'aperto e disse queste parole molto belle. E lui, per esempio, diceva queste parole che io vi cito oggi. Dovete comprendere adesso, anzi, parto da più indietro che è ancora più bello, no? Figli miei, qualsiasi specie di evasione dalle realtà oneste di tutti i giorni significa per voi, uomini e donne del mondo, il contrario della volontà di Dio. Dovete comprendere, con una luce tutta nuova, che Dio vi chiama a servirlo nei compiti e attraverso i compiti civili, materiali, temporali della vita umana, in un laboratorio, nella sala operatoria di un ospedale, in caserma, dalla cattedra di un'università, in fabbrica, in officina, sui campi, nel focolare domestico e in tutto lo sconfinato panorama del lavoro. Dio ci aspetta ogni giorno, sappiatelo bene, c'è un qualcosa di santo e di divino nascosto nelle situazioni più comuni, qualcosa che tocca ognuno di voi scoprire. E voi pensate alla barca di Pietro sulla quale c'è Gesù. Se noi dicessimo a Pietro questo, Pietro, tu ti devi rendere conto che nella tua barca c'è qualcosa di santo e di divino. E lui, Pietro, dice, beh, l'ho scoperto, e c'è proprio Gesù, è lì presente nella mia barca. Allora noi non lo vediamo oggi come lo vedeva Pietro, però è lì presente, come era presente sulla barca di Pietro. A quegli universitari, a quegli operai che mi seguivano verso gli anni 30, io solevo dire che dovevano saper materializzare la vita spirituale. Volevo allontanarli in questo modo dalla tentazione così frequente allora e anche oggi di condurre una specie di doppia vita. Da una parte la vita interiore, la vita di relazione con Dio. Dall'altra, come una cosa diversa e separata, la vita familiare, professionale, sociale, fatta tutta di piccole realtà terrene. No, figli miei, non ci può essere una doppia vita. Non possiamo essere come degli schizofrenici se vogliamo essere cristiani. Vi è una sola vita, fatta di carne e di spirito, ed è questa che deve essere, nell'anima e nel corpo, santa e piena di Dio. Questo Dio invisibile lo troviamo nelle cose più visibili e materiali. Non vi è altra strada, figli miei. O sappiamo trovare il Signore nella nostra vita ordinaria o non lo troveremo mai. Per questo vi posso dire che la nostra epoca ha bisogno di restituire alla materia e alle situazioni che sembrano più comuni il loro nobile senso originario, metterle al servizio del regno di Dio, spiritualizzarle, facendone mezzo e occasione del nostro incontro continuo con Gesù Cristo. Per cui voi pensate agli strumenti del vostro lavoro, possono essere i libri, i quaderni, i computer, e ciascuno di voi sa. E quelli sono come che so, è quel pane e il vino che il sacerdote offre sull'altare. Poi pensate alle persone con cui lavorate, collaborate, state nel vostro lavoro di ogni giorno e pensate, queste sono le persone come la folla che ascolta Gesù, oppure come gli amici di Pietro con cui lui collabora. Questa è la nostra vita, come quella di Pietro con Gesù sulla barca, come quella di la folla che ascoltava il Signore. Quando ebbe finito di parlare, dice il Vangelo di Luca, disse a Simone, prendi il largo, gettate le vostre reti per la pesca. Simone rispose: Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Ma torniamo alla scena precedente. Quindi il Signore gli dice: Prendi il largo, e vai al largo con la barca. Adesso abbiamo finito di parlare, congediamo la folla, che tornino a casa, è l'ora del pranzo. E intuendo che lui poteva pensare: Beh, sì, è l'ora del pranzo, ma non so cosa mettere in tavola quest'oggi perché i pesci non. Andiamo al largo. E Pietro è bravo perché Pietro pensa: Non è l'ora giusta, io conosco questo lago, tu che sei di Nazareth, che sei un uomo di campagna, non sai quali sono le ore per pescare, però si fida di Gesù. Cioè, probabilmente quello che è successo, io mi immagino che quando Pietro ascolta dalla barca, è lì un po' distratto, assonnato, però qualche parola di Gesù la sente e forse ha sentito qualche parola che l'ha incoraggiato, che l'ha incoraggiato. Allora lui va, però vedete, alla fine io penso che Pietro non ci ha creduto fino in fondo, perché l'altra barca non ha detto: Forza Giovanni, forza Giacomo, andiamo tutti a pescare. Probabilmente gli ha detto: Vabbè, voi aspettate lì, continuate a lavare le reti. Cioè, maestro dice andare al largo. Vabbè, diamogli retta, facciamo quest'altro tentativo, ma va con una sola barca, una sola delle due. Poi quando vede le reti che si riempiono, e loro lì sì che l'esperto pescatore ha capito quanti erano quei pesci, quanto pesavano, non ce la facevano da soli, pur essendo Gesù molto forte, non ce la facevano. E allora, ecco, urlano a quelli che sono rimasti a riva di venire da loro, e quelli con rapide remate si avvicinano con due barche, prendono tutti questi pesci che quasi le due barche affondavano. Quindi quasi al pelo dell'acqua stanno, no? Enorme quantità di pesci. Perché Gesù, quando tu fai le cose, le fai proprio bene. Cioè, Gesù, quando fa i miracoli, li fa in abbondanza. Pensate, alle nozze di Cana trasforma in vino sei anfore enormi, piene d'acqua, e i servi le riempiono fino all'orlo. Quelli erano già brilli, e però gli dà un sacco di vino. E del vino migliore, infatti il maestro di tavola diceva: In genere si fa il contrario, prima il vino buono, poi quando la gente è un po' alticcia, il vino cattivo. Invece tu il vino migliore l'hai tenuto alla fine. Oppure quando moltiplica i pani e i pesci per dare da mangiare a quelle migliaia di persone, sapete quante? Poi dice ai 12 apostoli: Adesso raccogliete tutti gli avanzi, e ne raccolgono 12 ceste piene. Cioè Gesù fa sempre cose con generosità. Con abbondanza, così fa anche con noi. Quando ci dà il suo amore, ce lo dà con abbondanza, non lo lesina. Quando ci dà la sua grazia, ce la dà con abbondanza, il suo aiuto. E noi dobbiamo imparare questo stile di Gesù anche noi tra di noi, soprattutto quando dobbiamo passare agli altri l'amore di Dio, dobbiamo essere molto generosi e molto magnanimi. Molto, sapere in questo senso, lo dico non in senso letterale, ma insomma, sprecare l'affetto, l'attenzione, non aver paura di esagerare. Si può esagerare nell'amore? Io penso di no. E poi dopo, evidentemente, abbiamo il buon senso, abbiamo tante cose da fare, sapremo e con prudenza scegliere e fare le nostre scelte, però abbiamo questo bellissimo esempio di Gesù che è generoso con noi. E così anche Gesù fa in modo che sia facile credere in lui. Allora noi capiamo un po' perché Pietro dice: Sono un peccatore. Un po' all'inizio non ascoltava Gesù perché era un po' scoraggiato per la pesca che era andata male, di una sola barca invece che due, no? Cioè ci credeva ma non ci credeva. E allora dice: tu sei troppo bravo, sei troppo buono, sei troppo grande, io non sono degno di te. Questo pensiero può venire a ciascuno di noi tantissime volte. Ma chi è all'altezza? Nessuno. Cioè, nel senso, tutti noi che siamo chiamati dal Signore siamo ad essere Suoi discepoli, ad essere cristiani, siamo peccatori che amano Gesù Cristo. Così si definiva, per esempio, San José María Escrivá, il fondatore dell'Opus Dei, così il Papa attuale Francesco si definisce: sono un peccatore che Dio ha guardato. Che Dio ha guardato, quando ripensa alla sua vocazione, no? Un peccatore che Dio ha guardato. Infatti lui si ricorda che ha avuto la certezza che se lo voleva come sacerdote durante una confessione un po' imprevista, imprevedibile e improvvisa. E tante volte succedono queste cose. Allora, noi abbiamo, Gesù, la certezza di sapere che tu ci guardi, che tu vuoi salire sulla nostra barca, cioè vuoi entrare nel nostro posto di lavoro, vuoi stare presente. E il modo più facile che ha di essere presente nel nostro posto di lavoro è essere presente dentro di noi. No? La nostra fede ci dice che lui abita dentro di noi quando noi abbiamo la fede, abbiamo la grazia, no? E abita in noi, allora attraverso noi è presente nel nostro posto di lavoro. E ci incoraggi, non ci rimproveri, ci fai vedere come quanto ci ami, e alla fine se ti diciamo questo è troppo, io non ce la faccio, io sono un disastro, io sono. Invece Gesù a quel punto dice: fantastico, siamo arrivati al punto essenziale, ci siamo. Quando Pietro dice sono un peccatore, allora lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone, cioè tutti sono stupiti, tutti dicono questo è una. E qui insomma il Signore è così vicino, ma noi non siamo adatti, no? E Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini, cioè io farò in modo che il tuo lavoro diventi, adesso per lui cambia un po', nel senso che. Però la tua esperienza professionale diventa capacità di avvicinare gli uomini a Dio, no? Alla Chiesa. E quindi nel momento in cui uno di noi dice: Signore, io non sono adatto, non sono degno, non sono all'altezza, io sono un peccatore, in quel momento Gesù dice: bene, allora ce la puoi fare, perché ti consideri così e perché sai che sono io che ti aiuto in tutto, sono io che ti ho guardato. Sono io che sono salito sulla tua barca, sono io che ti ho detto vai al largo, sono io che ti ho chiamato. Allora se noi, e poi la Vergine dice tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Se noi pensiamo alla nostra vita quotidiana come un luogo dove il Signore vuole entrare, dove Lui ci chiama a seguirlo, allora io penso che possiamo nel parlare con Lui, nel pregare, possiamo dirgli Gesù. Ti affido le persone che lavorano con me, che studiano con me, che io conosco, tutte le amicizie, insomma, e perché se tu stai dentro la mia barca, cioè dentro il mio cuore, tu stesso, attraverso di me, attraverso il mio affetto, la mia attenzione, attraverso i miei occhi, attraverso la mia parola, li puoi chiamare e dirgli: venite con me, anche voi. Diventerete pescatori di uomini.